100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo di fisco, ma non tanto per l'allarme lanciato dai commercialisti italiani, secondo i quali con il 7.30 precompilato i contribuenti rischiano di perdere 1,5 miliardi di rimborsi. Su questo ci limitiamo a rimandare al Sole 24 Ore di oggi, che ha un focus tutto dedicato agli elementi che vanno conosciuti se si vuole utilizzare il 7.30 precompilato. E ci vogliamo riferire invece a un'altra novità che è emersa dal Consiglio dei Ministri di ieri e riguarda la fatturazione elettronica. In questo momento la fatturazione elettronica è prevista solo nel rapporto con la pubblica amministrazione, ma il governo ha deciso che la fatturazione elettronica tra privati porterà un insieme di vantaggi per il contribuente. Il più importante di questi vantaggi, che è un vero e proprio incentivo a utilizzare la fatturazione elettronica anche tra privati, è quello rappresentato dall'assenza, se si usa la fatturazione elettronica, del cosiddetto spesometro, ossia l'elemento che va a guardare la differenza tra quanto dichiari come guadagni e quanto spendi effettivamente. Per il contribuente onesto questa è una bella e buona novità, semplifica di molto gli adempimenti burocratico-fiscali, ma soprattutto stabilisce un principio: se io, cittadino, contribuente, soggetto privato, contribuente, mi rendo trasparente, tu Stato non mi chiedi ulteriori controlli, perché a questo punto hai tutti gli strumenti per stabilire se sono un contribuente onesto oppure disonesto. Speriamo che questo sia solo l'inizio di un diverso rapporto che deve cambiare tra contribuente e pubblica amministrazione. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Oggi il Parlamento approva la legge sul divorzio breve, che poi è la possibilità, una volta ottenuta la separazione, di chiedere il divorzio con tempi ridotti rispetto all'attesa attuale, che è di 3 anni. Con la nuova legge il periodo tra la separazione e il divorzio scenderà a 6 mesi in caso di separazione consensuale e a 1 anno in caso di separazione giudiziale. Rispetto a quanto accade in altri paesi, quindi da noi non si potrà fare il divorzio immediato e il passaggio attraverso la separazione sarà comunque necessario. A questo punto è giusto chiedersi quale sia la reale portata di questa novità. Beh, da un lato è chiaro che la riduzione della fase chiamata di ripensamento rappresenta per l'Italia un cambiamento importante. Si deve pensare che la legge sul divorzio del 70 fissava questo periodo a 5 anni, che poi sono stati ridotti a 3 con la riforma del 1987. Sotto un altro profilo, per alcuni la nuova legge comporta una definizione più rapida dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, eliminando subito una delle maggiori fonti di conflitto nella fase della crisi coniugale. Ma è giusto segnalare anche qualche preoccupazione. In alcuni casi le nuove regole potrebbero addirittura allungare i tempi per arrivare allo scioglimento del matrimonio, con l'effetto di rendere più pesanti, già pesantissimi, costi di un divorzio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.